si accende così. Messo on. C'è la hold. Sentra dei tagli di problemi, La stessa corrucca. Ora. Non ti serve? No, no. Il mio, grazie. Di solito cominciamo col sutra del cuore, poi abbiamo il rifugio, poi aggiustiamo la mente e andiamo avanti. Mi posto tra i gioielli supremi, così una volta oggi il Bhagavan di Manavaji che sulla montagna picca dei volto insieme a un vasto di sangue e monaci un vasto sangue di Bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Viteshvara, stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza vedica, che i cinque aggregati come vuoti intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Viteshvara, come deve estrarsi ogni filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò ai Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Viteshvara, rispose allora al venerabile figlio di Sarasvati. Shariputra, ogni figlio filo del lineaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi nel seguente modo, apprendendo correttamente e ripetutamente che cinque aggregati come vuoti intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuote sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminate, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, discriminazione, fattore di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente, non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure il costituendo dell'occhio e così via, fino ad includere il costituendo della mente, il costituendo della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estensione dell'ignoranza per includere vecchiaia e morte, e estensione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è senso supremo, né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Ma ciò ci riputano poiché non c'è ottenimenti, i Bodhisattva si basano e dimorano alla perfezione della saggezza. Le loro menti senza più oscurazione e senza paura, essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale Nirvana, ed affidandosi alla perfezione della saggezza è evidente che tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi sono anche completamente risvegliati e insorpassabili in perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata, gate, gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Shariputra in questo modo che il Bodhisattva, Mahasattva, dovrebbe destinarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan rimesso da quel samadhi elogiò il Bodhisattva, Mahasattva, Arya, dicendo: ben detto, figlio del lineaggio, è proprio così, si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, per finita la gata ne giuiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sarasvati, il Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Viteshvara, l'intera assemblea intorno a loro insieme al mondo dei dei, uomini dei semidei, Gandharva, esultarono e posero alte lodi la parola del Bhagavan. Sangye Jodan Sangye Jonam Jamjo Mandu Dane Gyamsu Chi Dange Chimso Gyepe Sanamye Nola Penche Sangye Droba Jo Sangye Jodan Sangye Jonam Jamjo Mandu Dane Gyamsu Chi Dange Chimso Gyepe Sanamye Nola Penche Sangye Droba Jo Sangye anja dan sangye chanam la Janju madhu dane gyab su chi Adange chin sangye pe sanam ki Nola penche sangye drupa jo Ok, poi si dovrebbe correggere la propria motivazione, visto che questi sono insegnamenti che appartengono al terzo livello di motivazione, il Mahayana, quindi dovrebbe cercare di aggiustare la mente in modo a essere in sintonia per ricevere le spiegazioni del discorso. Quindi brevemente si dovrebbe pensare che siamo molto fortunati perché siamo ancora in vita oggi. Okay? Poi abbiamo una preziosa rinascita umana, okay? Dotata di 18 attributi, ha un grande potenziale, molto rare, difficile da ottenere, è molto breve. Okay? Quindi abbiamo anche incontrato l'insegnamento del Buddha, non soltanto, ma l'insegnamento del grande veicolo. Okay, siamo presi sotto la cura dei maestri autentici, quindi siamo molto fortunati. Quindi oggi abbiamo ancora la possibilità, cioè ogni giorno, visto che abbiamo questi vari attributi, la possibilità di fare qualcosa di molto rilevante, cioè molto rilevante, qualcosa di un grande beneficio. Abbiamo la possibilità di sviluppare delle qualità che ci fanno piano piano uscire dalla sofferenza. Okay? Non soltanto, ma possiamo anche, sì, allarghiamo il nostro scopo, prendendo gli altri in considerazione, addestrando la nostra mente, visto che abbiamo incontrato il Dharma, no? Abbiamo la possibilità di addestrare la nostra mente e di uscire, di questa attitudine anche molto, molto piccola, molto centrata sulla propria persona. E a fare in modo che la nostra mente sviluppa qualità e quindi diventa una fonte di beneficio non soltanto per noi ma anche per gli altri. Okay? Quindi questa possibilità che abbiamo è far di noi una fonte di benessere e di pace per gli altri. Okay? Questo lo dobbiamo quindi all'insegnamento, è la capacità di beneficiare gli altri. Dipende direttamente dalle qualità che possiamo generare, okay? Il culmine in termini di potenziale per beneficiare agli altri cioè esiste nello stato di Buddha. Questo è il culmine di forma di mente, dove tutte le qualità sono state consumate nel senso che non si può andare al di là della generosità come praticato, come la vive. Il Buddha non si può andare al di là della pazienza o dell'etica o dello sforzo o della concentrazione o della saggezza, come esiste all'interno del continuum di un essere pienamente illuminato, che okay? È impossibile di andare al di là. Quindi ecco perché vengono chiamate Paramitan, Param che è andato e Ita al di là, andato al di là. Okay? Quindi abbiamo questa capacità quindi di fare che oggi, tramite i nostri sforzi, i nostri studi, eccetera, abbiamo la capacità di avvicinarci di questo stato e fare che quindi la nostra mente, cioè di attualizzare lo stato di Buddha per essere in grado di svolgere il beneficio ultimo degli altri. Che il beneficio ultimo non significa essere in grado di portare gli altri al di là della sofferenza in accordo alla loro predisposizione. Quindi cerchiamo di sviluppare questa mente, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Ok, quindi in termini del discorso, okay, noi siamo arrivati alla fine della sezione dell'essere di motivazione intermedio, okay? Quindi in breve, qual è la misura di aver generato la mente di un essere di motivazione intermedio è quando giorno e notte, okay, la propria intenzione è girata verso l'ottenimento della liberazione, che la persona non ha più il minimo interesse nell'apparenza di questa vita o delle vite future, su qualsiasi forma elevata, eccetera. Okay? Quindi la persona, cioè questa mente, quindi è il risultato di questi addestramenti che abbiamo visto, e la persona si sente quindi come imprigionata in una casa in fuoco. Uno non ha il desiderio di rimanere in una casa in fuoco, no? E quindi ricerca uscire di questa casa con grande, cioè non c'è niente che lo trattiene, no? Cioè, l'unica cosa che vuole è uscire di questa casa. Nello stesso modo, una persona che ha generato quindi la mente di emersione definitiva, quella genuina, vuole uscire dal samsara con la stessa determinazione, okay, che uno, cioè, vuole uscire di una casa in fuoco. Si sente come nel samsara come seduto su un ago. È molto sconfortevole. Non c'è felicità nell'essere seduto su un ago. Okay? È una persona che ha generato quindi questa mente, che ha quindi questa penetrazione nella natura, nelle caratteristiche convenzionali e ultime dei fenomeni, desidera uscire, cioè non c'è niente di confortevole, non c'è niente che lo trattiene in questa esistenza. Okay? Quindi e questo è direttamente in relazione ai tre tipi di sofferenza. No? Abbiamo visto la sofferenza del cambiamento, la sofferenza del dolore, del cambiamento e ogni pervasiva. E quindi abbiamo visto che noi principalmente l'essere libero della sofferenza è il primo. Noi non vogliamo, il tipo di sofferenza da quale vogliamo essere liberi è il primo, sofferenza della sofferenza, quindi il mal di testa, la fame, la sete, il freddo, il caldo, queste cose, no? Noi non percepiamo, abbiamo ancora la percezione della sofferenza del cambiamento come essendo qualcosa attraente. Infatti tutto quello che facciamo più o meno nella nostra esistenza, no? Nella nostra giornata, si guardiamo bene e ricerchiamo la sofferenza del cambiamento, no? È quello che ricerchiamo. Qui non abbiamo una grande comprensione, grande penetrazione verso ciò che riguarda la natura di questi sopporti sulle quali andiamo a prendere la felicità. Okay? Quindi non parliamo neanche della sofferenza di pervasiva di composizione, che non la percepiamo neanche. Nel senso che per noi la sofferenza onnipervasiva di composizione è come della polvere sulla mano. La polvere sulla mano, nel senso che non ci disturba per niente, non ci dà fastidio. Invece per qualcuno che ha realizzato le quattro nobili verità, okay? Quindi che ha generato questa mente dell'immersione definitiva, definita, la sofferenza onnipervasiva di composizione è come nella polvere nell'occhio, cioè da fastidio. Cioè, ecco, quindi lui ricerca questo. Quindi siamo lì, ecco, siamo qui. Ok, allora adesso entriamo nelle contemplazioni dell'essere di motivazione superiore. Allora, fin da adesso abbiamo studiato i rami. La pratica principale del nostro sistema, la pratica principale è il terzo scopo, il grande scopo. Questo è deve essere il cuore della nostra pratica. Però per riuscire a avere una pratica autentica del grande veicolo, e quindi le mente che ci permettono di presentarsi come un essere del grande veicolo, vengono sviluppati con il sopporto delle altre, ok? Quindi tutte le contemplazioni che abbiamo visto, che sono incluso nell'essere di motivazione iniziale, dell'essere di motivazione intermedio, non sono una fine in sé, sono delle pratiche preliminari, dei rami allo sviluppo della mente di bodhicitta, ok? Quindi siamo nel testo, siamo a pagina 57. Dobbiamo leggere quest'ultima cosa qui. Okay? Sì, qualcuno. Grazie. Siamo qui a esporre gli stadi della pratica del sentiero. Qui che sono arrivati. Esporre gli stadi della pratica del sentiero che libera della sofferenza. L'addestramento nella moralità, che elimina la distrazione dalle menti completamente distratte, scalza le afflizioni manifeste. L'addestramento nella stabilizzazione meditativa, che rende stabile la mente non equilibrata, sopprime le afflizioni manifeste. L'addestramento nella saggezza, che rende libera la mente non libera, taglia i semi delle afflizioni dalla radice e porta all'ottenimento del risultato, il nirvana. Quindi la moralità completamente pura è la radice di tutte le felicità e le eccellenze temporali e finali. Il Sutra del Re delle Stabilizzazioni Meditative dice che in questo periodo in cui ci sono le cinque degenerazioni, essa è particolarmente di grande beneficio. In particolare, poiché Atisha e Kadampa fanno della moralità pura la loro pratica principale, Sarava disse: in generale, qualunque eccellenza o difetto sorga, affidati al Dharma. Se al suo interno ci si affida anche a quello che viene detto nel Vinaya, non ci sarà bisogno neppure di esaminare se stessi. Si sarà sinceri, saldi, gioiosi e completamente di beneficio. Dato che questa asserzione si rivela assolutamente incontestabile, vi sollecito a smettere di brancolare alla ricerca di rami senza radici e a rendere questo stesso sentiero il cuore della vostra pratica. Okay. Quindi qui, cioè in breve, qual è il metodo, abbiamo visto il metodo per ottenere la felicità nelle vite future, abbiamo visto che è la legge di causa-effetto, è il rifugio, questo è sulla quale la persona si appoggia per ottenere felicità nella vita futura. Rifugio, la legge di causa-effetto. Per ottenere la liberazione dobbiamo appoggiarsi su che cosa? Sui tre addestramenti superiori. L'addestramento superiore in moralità, l'addestramento superiore in concentrazione e l'addestramento superiore in saggezza. Questi sono i tre addestramenti che portano uno alla liberazione, il nirvana. Okay, quindi l'addestramento superiore in moralità, okay, quindi questo incomincia con gli abbandoni delle 10 azioni non virtuose e culmina con la presa di voti di liberazione individuale per laici, per monaci, eccetera. Okay? E la sua funzione viene presentata qui, la sua funzione, dove? La moralità completamente pura è la radice di tutte le felicità, ok? Di tutte le felicità, perché è la radice di tutte le felicità temporale, cioè in questa vita ma nelle vite future, nel senso che quando uno ha un comportamento etico, automaticamente la moralità in sanscrito viene chiamata Shila. Shila significa ciò che rinfresca, ciò che rinfresca. Perché? Perché la moralità rinfresca del tormento o del fuoco dell'afflizione. Una persona che ha un comportamento etico, automaticamente questo pacifica la sua mente. Perché pacifica la sua mente? Perché dovuta all'abbandono di certe azioni, all'abbandono determinato, volontario di certe azioni, questo blocca l'attività mentale inappropriata. Okay? Nel senso che uno decide di smettere, non so, di uccidere, la condotta sessuale scorretta, il rubare, le parole che feriscono gli altri, eccetera, il separare gli altri, tutti questi comportamenti che sono di danno agli altri, a sé, che sono motivati comunque dalle afflizioni. Questi comportamenti sono motivati dalle afflizioni. Uno va a danneggiare gli altri o per odio o per attaccamento. Okay? Quindi, visto che la persona decide di non più essere coinvolti in queste azioni, automaticamente la mente si trattiene del motivare tale azione. Okay? Quindi abbiamo visto che l'afflizione sorge dovuta all'attività mentale inappropriata, no? È questa mente concettuale che esagera i difetti o le qualità di un oggetto e ha come funzione di far sorgere l'afflizione che dopo spinge all'attività. Quindi, visto che adesso c'è un comportamento etico, fisico, verbale, ma l'abbiamo visto che l'etica è anche, la vera etica, è una mente libera di afflizione, okay? Perché è impossibile avere un comportamento etico se la mente, se ci sono le afflizioni rampante nella mente, è impossibile, cioè automaticamente la persona, visto che non abbiamo il controllo sulla propria mente, se lasciamo le afflizioni svilupparsi, automaticamente saremo portati via da queste afflizioni e quindi il comportamento etico non accadrà. Quindi abbiamo il beneficio in questa vita perché automaticamente c'è il pacificare, cioè la mente si pacifica, c'è un primo livello di pacificazione della mente e l'altro è la felicità nelle vite future automaticamente, no? Perché la causa sostanziale, la causa principale per la rinascita superiore è l'etica, non è la generosità, non è l'etica, è la causa sostanziale per le rinascite superiori come quelle umane. Temporali, quindi felicità è finale perché senza l'etica è impossibile sviluppare concentrazione e senza concentrazione è impossibile sviluppare la saggezza che ha realizzato le quattro nobili verità. E senza realizzare le quattro nobili verità, in particolare l'aspetto di privo di assenza di un sé, è impossibile ottenere la liberazione. Okay? Quindi l'etica è il terreno sul quale la concentrazione viene sviluppata e sul quale, dopodiché, sul quale viene appoggiata la saggezza che penetra il modo di esistenza dei fenomeni. No? È come paragonata, cioè se questo paragone non è nei trattati. Una persona che vuole tagliare un albero, cioè molto, molto grosso, con delle radici molto profonde, no? Samsara. Quindi questa persona quindi ha un'accia, un'ascia, okay, che simbolizza la saggezza. Questa ascia va anche tenuta da bracci potenti per andare a colpire sempre al posto giusto, no? Quindi l'ascia, la saggezza, i bracci potenti sono la concentrazione, però questa persona si tiene in piede su un terreno stabile, okay? Che è quello dell'etica, altrimenti non funziona. Ok, questo essendo detto, quindi in questo poi c'è il re, il sutra del re della stabilizzazione meditativa, dice che in questo periodo è il periodo delle cinque degenerazioni, cinque degenerazioni, quindi viene. Questo significa che in questo periodo è molto più difficile, cioè la pratica è molto più difficile, è molto più difficile oggi di praticare concentrazione, saggezza o moralità che all'epoca del Buddha. All'epoca del Buddha era un periodo ancora molto buono, anche se era già incominciato la degenerazione, dove era molto facile, le menti erano naturalmente più quete. Quete, okay? Quindi più inclino verso il praticare la virtù, eccetera. E così dicono che anche se, per esempio, il praticare il tenere dei vuoti, per esempio, per 24 ore, no? Anche uno, due per 24 ore, accumuliamo più virtù che l'etica di un distruttore del nemico all'epoca del Buddha. Visto la difficoltà, sia nell'ambiente, sia nella propria mente, oggi di trattenere puramente queste varie etiche. Quindi le cinque degenerazioni, se mi ricordo, abbiamo la generazione degli esseri senzienti, la degenerazione del tempo, la degenerazione della forza, della vita, la degenerazione della visione, non me le ricordo. No. Me le ricordi? No. Ok. Quindi la degenerazione, gli esseri, anche sì, quindi cosa significa? Significa che entriamo in un'era molto di conflitto, ci sono sempre più conflitti, e anche c'è una degenerazione anche dell'ambiente, nel senso che gli alimenti sono sempre più depauperata di qualità nutritive. L'altra cosa è le visioni errate sono sempre più presenti, le persone si afferrano sempre di più a visioni erronee. Ci sono sempre più malattie, anche delle malattie nuove che non esistevano prima. Cos'altro? E le afflizioni sono sempre più rampante, violente, sì, è violente, molto, molto forte l'afflizione. Quindi queste sono le degenerazioni. E infatti nel Tantra di Kala Chakra, nel Tantra Radice del Kala Chakra, il Buddha ha fatto delle predizioni, no? Aveva spiegato di come riconoscere i tempi degenerati. Aveva detto che nei tempi degenerati si riconoscono perché anche quelli che non appartengono all'esercito avranno delle armi. E poi diceva un'altra, diceva che la musica sarà rimpiazzata, dice, dai suoni, sostituita da suoni. Questo è interessante. Comunque. Ok, sì, tempi degenerati ci siamo, siamo nel cuore. Ok, in particolare perché dice al suo interno si ci affide anche quello che viene detto nel Vinaya. Al Vinaya sapete che possiamo organizzare tutti i 84.000 gruppi di insegnamento del Buddha, li possiamo organizzare in vari modi, no? Nei 12 rami dell'insegnamento, o nei tre principali aspetti del sentiero, o nei tre addestramenti superiori, o nei tre canestri. Tre canestri sono il Vinaya, l'Abhidharma e il Sutra. Okay? Quindi il Vinaya è ciò che, tutto ciò che tratta dell'addestramento superiore in etica, in moralità. Okay? Quindi trovate dentro tutto ciò che sono i voti di liberazione individuale, le spiegazioni, eccetera. Vengono anche insegnate nel Vinaya, quindi la disciplina monastica, questo è il Vinaya, vengono anche insegnati certi antidoti nel Vinaya, notalmente in particolare contro l'attaccamento. Ok? E poi abbiamo l'Abhidharma. L'Abhidharma è tutto ciò che tratta della saggezza, ok? Quindi l'Abhidharma, per esempio, tutto ciò che è la natura convenzionale ultima dei fenomeni, questo si trova nella canestra dell'Abhidharma, ok? E nella canestra del Sutra, ok? Si trova lo sviluppo della concentrazione. Viene spiegato come sviluppare le varie concentrazioni, assorbimenti, e anche tutti gli antidoti vengono spiegati. Questi sono i tre addestramenti superiori e i tre canestri. Ok, io proclamo il verso intermedio: gli esseri che si impegnano per l'illuminazione e la liberazione, dopo esserci impegnati nei tre addestramenti per il diventare liberi del circolo delle tre sofferenze dell'esistenza ciclica, dovrebbero mettere sforzo nel generare la mente Mahayana e la visione corretta. Quindi cosa significa? Significa che fino a qui abbiamo visto il come generare il primo aspetto dei tre principali aspetti, che è la mente di immersione definitiva, definita, la mente di immersione definita. Quindi le contemplazioni dell'essere dello scopo iniziale spiegano come generare come staccare la mente dell'apparenza di questa vita. Okay? Dopo abbiamo le contemplazioni dell'essere di motivazione intermedio. Questo spiega il come staccare la mente dell'apparenza delle vite future. Quindi questi due racchiudono il metodo per generare la mente di immersione definita. E di solito troviamo anche, ovviamente, nelle contemplazioni e l'addestramento dell'essere di motivazione intermedio, troviamo anche l'insegnamento sulla natura, la mancanza di un sé, perché è il modo per ottenere la liberazione. Però nella presentazione dell'Amrit è insegnato facendo parte delle contemplazioni dell'essere di motivazione superiore. Quindi dopo essere addestrato della mente di immersione definita, dobbiamo addestrarsi nella mente dell'illuminazione, nella mente di Bodhicitta, è la visione corretta della realtà. Ok? Quindi andiamo avanti. Addestrare la mente nel sentiero in comune con i grandi esseri. La lampada del sentiero di Atisha dice: coloro che desiderano pienamente estinguere in modo perfetto tutte le sofferenze degli altri, partendo delle sofferenze incluse nel loro stesso continuo, tali esseri sono supremi. Ok? Quindi un'altra cosa, ritorno alla citazione prima, no? La citazione da dove? Non si sa. Ok, allora, dice, anche dopo, perché bisogna generare la mente dell'illuminazione? Allora, ovviamente dal punto di vista degli altri è qualcosa che va fatto, perché altrimenti, come lo dicevamo l'altra volta, no? È come essere in prigione con la propria famiglia, eccetera, i cari, che sono presi cura di sé da molto tempo, e poi facciamo i piani per andarsene via da solo. Questa è più o meno l'attitudine. Però quindi dal punto di vista degli altri è giustificato, ma anche dal punto di vista di se stesso è giustificato. Perché il mero ottenimento della liberazione individuale, anche se già qualcosa di molto elevato, è una virtù ultima, che il nirvana è una virtù ultima, è comunque lo scopo personale non è pienamente attualizzato, perché abbiamo due tipi di oscurazione, okay? Abbiamo le oscurazioni afflittive, che sono l'oscurazione e la liberazione, che impediscono lo stato del nirvana, e abbiamo le oscurazioni cognitive, che impediscono la conoscenza simultanea dei due aspetti della realtà, dei due livelli di realtà, convenzionale e ultima, okay? o semplicemente possiamo metterla anche così, che la percezione di un fenomeno blocca la percezione degli altri fenomeni. Okay? Possiamo metterla anche così. Quindi solo il Buddha elimina questo ultimo livello di oscurazione che sono le oscurazioni cognitive. Quindi anche se otteniamo la liberazione, abbiamo una mente completamente pacificata, non c'è più un'afflizione, non c'è più ignoranza afflitta nella nostra mente, ok? Quindi moriamo in estasi, cioè così, però i fenomeni ci appaiono sempre come ci appaiono adesso, e questo è il prodotto dell'ignoranza, ok? I fenomeni non esistono come appaiono. Quindi l'eliminazione dell'ignoranza afflitta, okay? L'ignoranza afflitta elimina il credere in queste apparenze. Il credere in queste apparenze è ciò che blocca la liberazione, è ciò che permette lo sviluppo dell'afflizione mentale come l'attaccamento, eccetera. Quindi anche un Arhat, che è il distruttore del nemico, che ha ottenuto il nirvana, non ha più ignoranza, niente, però la sua percezione dei fenomeni è come questa che abbiamo. Ovviamente lui non ci crede, è chiaro, però è la stessa. E quindi perché quindi questa apparenza è dovuta alle impronte dell'ignoranza. Quindi lui ha eliminato l'ignoranza, ma non ha eliminato ancora le impronte di questa ignoranza. Dobbiamo distinguere tre cose. Abbiamo l'ignoranza manifesta o le afflizioni manifeste. Quindi quando un'afflizione come l'attaccamento, per esempio, l'avversione è attivo nella propria mente, abbiamo questo slancio, okay? L'abbiamo sotto forma di semi, okay? E quando non è attivo, per esempio adesso, no? No, spero che l'avversione non è attiva nella nostra mente, però abbiamo la potenzialità dell'avversione, okay? Quindi è sotto forma di semi. E abbiamo l'impronte lasciato dal seme, cioè, quindi sono tre fasi, cioè, o due, l'eliminazione dell'afflizione manifesta e non manifesta, okay? E dopo rimane l'impronta di questa afflizione. È come per esempio abbiamo dell'aglio, eliminiamo l'aglio, rimane l'odore dell'aglio, okay? L'odore dell'aglio, okay, è paragonabile all'impronta lasciata dall'ignoranza e dall'afflizione mentale. Queste impronte proiettano questa percezione dei fenomeni come avendo un'esistenza stabilita dal proprio lato, un'esistenza oggettiva, ok? Che il tavolo, le persone, tutto ciò che appare esista senza dipendere dalla mia mente, senza dipendere dalla mente. Hanno un'esistenza qui, dal lato del tavolo, il tavolo esiste, esiste lì, c'è il tavolo. Ecco, questo è proiettato dalle impronte, dall'ignoranza, dovuto a un essere familiarizzato dall'ignoranza da tempi senza inizio, l'ignoranza proietta questa apparenza, okay? Quindi scusate, le impronte proiettano questa apparenza e dopo quando l'ignoranza è attiva ci afferriamo a queste apparenze, crediamo a queste apparenze. Quindi il credere o l'afferrarsi alla vera esistenza, eh? Vera esistenza significa che i fenomeni sono veri, esistono come appaiono. Questa è la caratteristica di qualcosa che è vero, no? È che non c'è contraddizione tra il modo di apparire e il modo di esistere, e sono veri. Okay? Quindi noi abbiamo l'afferrarsi alla vera esistenza. Tutto questo è vero. Allora, questo ci lega al samsara, senza ciclica, il primo anello dei 12. E poi abbiamo questa apparenza. Quindi possiamo eliminare l'ignoranza, e una volta che abbiamo eliminato l'ignoranza, rimane questa apparenza. E questa apparenza è eliminata solo dai Bodhisattva sui tre terreni puri. Quindi è una volta che la più sottile delle sottili impronte di concezione di vera esistenza viene eliminato, l'istante dopo è lo stato di Buddha. E quindi a quel momento le due aspetti della realtà, la realtà convenzionale e la realtà ultima, appaiono simultaneamente. Simultaneamente. La percezione di un fenomeno non blocca più la percezione di altri fenomeni. Quindi il Buddha percepisce simultaneamente tutti i fenomeni dei tre tempi, quindi la realtà convenzionale e la realtà ultima. Questo è il suo modo, e spiegheremo più avanti perché questo è possibile, che bisogna capirlo perché è possibile. Difficile da spiegare, però ci proverò. Quindi ecco perché anche dal punto di vista di sé, il punto di vista personale, la liberazione non è finito. Infatti nei sutra, non so che anche nell'Abhisamaya, forse viene spiegato che la liberazione è stato qualcosa è spiegato al Buddha per coloro che non avevano il coraggio o la forza per attraversare questo oceano cioè, completo, no? Per fare tutta questa attraversata in una volta. Quindi il Buddha si dice che ha emanato quest'isola della liberazione individuale dove le persone si possono riposare per un po' di tempo e dopo continuare. Perché comunque cosa accade quando una persona ottiene il nirvana individuale, no? Ha il nirvana individuale. Allora quando muore questa persona, questo lo spieghiamo direttamente dal punto di vista delle scuole finali, non passiamo a quelle intermedie. Questa persona si assorbe in questa sfera della pacificazione, no? Per molto tempo. Ma quando dico molto tempo, significa che ci può essere la produzione di un universo, il mantenimento di questo universo, la disintegrazione dell'universo. Okay, quindi un ciclo completo fino al prossimo Big Bang e questa persona non ha visto niente, è rimasto assorbito in questa sfera della pacificazione. Quindi il problema è che durante tutto questo tempo, dal punto di vista di questa persona, c'è l'interruzione del beneficiare gli altri, c'è l'interruzione del beneficio agli altri. Quindi dal punto di vista, da un certo punto di vista, il nirvana è qualcosa che va ricercato, ma in paragone al Mahayana è qualcosa che va abbandonato. Quindi dal punto di vista Mahayana il nirvana individuale non va ricercato, ma altrimenti il nirvana va ricercato. E quindi questa persona si assorbe in questa sfera della cessazione. E per molto tempo, e quindi questa persona dopo va riattivata dai Buddha. A un certo punto i Buddha riescono a riattivarlo e a questa persona viene spinta a generare la mente dell'illuminazione, quindi a rifare gli addestramenti, entrare nel sentiero dell'accumulazione Mahayana e percorrere tutto il sentiero con la pratica delle sei perfezioni fino all'ottenimento dello stato di Buddha. Il problema, allora potete dirmi, sì, ma non è male sta cosa, prima si va lì e poi si entra nel Mahayana, è una cosa graduale, no? Cioè il problema è che una persona che entra subito nel Mahayana, si esercita, sviluppa dell'illuminazione, entra nel Mahayana, ottiene illuminazione molto velocemente, invece che uno che ha già ottenuto la liberazione individuale, per dopo ottenere l'illuminazione completa o il nirvana senza dimora. Lo stato di Buddha si chiama il nirvana senza dimora perché non dimora né l'estremo di essenza ciclica, come noi, e non dimora neanche nell'estremo di pace, come i distruttori del nemico. Quindi il nirvana senza dimora ci mette molto più tempo, un tempo molto lungo, dovuto a questa predisposizione a assorbirsi. Quindi lavora un po' e poi entra in meditazione e blam, si assorbe, ma non per 1, 2, 3, 4 giorni, per molto tempo. E poi si risveglia dell'assorbimento e poi continua il sentiero e blam, si riassorbe. Quindi dovuta a questa predisposizione, no? C'è questa attrazione per la sfera della pacificazione. Infatti si dice che i distruttori del nemico hanno la mente autogratificante. La mente autogratificante, che è l'ostacolo principale alla mente di bodhicitta, allo sviluppo, non è un'afflizione mentale, no? È una forma mentis, e il distruttore nemico ce l'hanno. Noi non ne parliamo neanche, cioè, c'è bisogno di precisarlo. Quindi ecco perché, infatti, nel sutra viene anche menzionato, era l'epoca del Buddha, no? C'era, non so se è Shariputra o Mahakashyapa, comunque uno dei grandi discepoli del veicolo individuale del Buddha, uno di questi discepoli straordinari, c'era un'assemblea, non so di quante persone, 500 persone, non so, lui vede che si mette a insegnare il suo veicolo, cioè l'Hinayana, il veicolo individuale, queste persone ottengono lo stato di Arahat in questa vita. Quindi Quindi stava per incominciare a insegnare, su questa arriva Manjushri e dice: no, no, no, insegno io. E incomincia a insegnare il tantra direttamente, cioè il tantra. E queste persone, visto che non erano assolutamente preparate, hanno generato delle visioni errate rispetto a queste pratiche. E dovuta alla generazione di queste visioni errate, hanno preso rinascita nei rami inferiori. Quindi Mahakashyapa vede quello che stava accadendo, va dal Buddha e dice: guarda, c'è Manjushri, cioè è fuori. Nel senso che se avevo insegnato il mio veicolo avrebbe ottenuto cioè il Nirvana, adesso questi qua vanno a prendere rinascita negli inferni. E il Buddha dice: tu non sai la percezione e le qualità di Manjushri. Queste persone, va bene, vanno per poco tempo nei rami inferiori, però il loro karma in quel modo si elimina e quando ritornano alla sfera degli esseri umani otterranno l'illuminazione molto veloce, lo stato di Buddha molto velocemente. Quindi questa cosa. Comunque, andiamo avanti. Allora, il come generare la mente dell'illuminazione dopo aver generato tale mente, come addestrarsi nella condotta. E quindi incominciamo che come generare la mente di illuminazione, abbiamo gli stadi di addestramento della mente di illuminazione e il modo di sostenere la generazione della mente per mezzo del rituale. Ok? Quindi prima di entrare nell'addestramento effettivo, okay, ci sono due metodi per generare la mente di illuminazione. Abbiamo il metodo dei sei causa e un effetto, e il metodo di cambiare se stesso con gli altri. E poi c'è un metodo che combina questi due. Quindi avremo alla fine un metodo che prende in considerazione questi due e mescolati. Okay? Quindi in termini dei lineaggi, il metodo di cambiare se stesso con gli altri è stato insegnato dal Buddha. Il Buddha l'ha passato a Maitreya, Maitreya Asanga, tutti gli altri, Vimuktisena, Vasubandhu, eccetera, fino a Atisha, poi Atisha i maestri Kadampa arrivano dopo fino a noi. Okay? E invece il metodo di chiamare se stesso con gli altri è stato insegnato dal Buddha, il Buddha l'ha passato a Manjushri, Nagarjuna, cioè Shantideva, eccetera, poi Atisha, i maestri, i nostri maestri. Quindi noi abbiamo nel nostro lineaggio abbiamo i due metodi. Quindi il metodo di chiamare se stesso con gli altri è stato particolarmente amplificato o sviluppato dal lineaggio della condotta vasta, ok? E invece quello del chiamare se stesso con gli altri, il lineaggio della visione profonda. Viene considerato come un sistema un po' più difficile, nel senso. Hai ripetuto la stessa cosa? Sì, vabbè. Hai ripetuto la stessa cosa, tanto la differenza dei linguaggi. Uno, il lineaggio della condotta vasta e della Sì. visione profonda, Ok, e parlare ok? se stessi con gli altri, da chi hai ripetuto? Da quelli, l'abbiamo detto, da Manjushri, eccetera, della visione, la visione profonda. Non ho detto questo? Sì, hai detto sostanzialmente, però alla fine hai detto la stessa cosa, hai detto che Esatto. la visione profonda, la visione vasta, l'hanno tutti e due ottenuta tramite scambiare se stessi con gli altri. No, No. vabbè, però l'avevo capito Sì. Ok, Ok, va bene, comunque. Ok, sono due che seguono. Sì, quindi è più, sì, è particolare, è più adatto per gli esseri di facoltà un po' più acute, perché c'è la necessità di comprendere il punto di vista ultimo, quindi, di avvicinarsi della comprensione della totalità. Comunque le vedremo entrambi e dobbiamo, anche se un metodo basta per generare una bodhicitta completamente sviluppata, l'addestramento nei due è preferibile. Quindi prima di andare in queste cose abbiamo del materiale introduttivo, quindi abbiamo definizione della mente di bodhicitta, i benefici della mente di bodhicitta, i tipi di mente di bodhicitta, i tipi di mente per generare la mente di bodhicitta, i quattro livelli della mente di bodhicitta, le 22 divisioni della mente di bodhicitta, eccetera, eccetera, brevemente. Rilassati Paolo, ti ho visto brevemente. Questo non è nel testo, quindi la mente di bodhicitta, se prendiamo la definizione, sono varie, prendiamo una molto semplice che si trova nell'Abhisamalankara, quindi la definizione data da Maitreya, ok? Quindi è il desiderio di ottenere l'illuminazione per il beneficio degli esseri senzienti, di tutti gli esseri senzienti. Questa è la divisione proprio di Maitreya che si trova nell'Abhisamalankara. Quindi, in termini di entità, bisogna capire cos'è questa mente di bodhicitta, perché se non comprendiamo qual è l'entità di questa mente, visto che dobbiamo cercare di svilupparla a ogni costi, se non sappiamo che cosa dobbiamo sviluppare, diventa difficile. Quindi la mente di bodhicitta, che cos'è? Quelli che hanno fatto il Loring, è un fattore mentale? È una mente principale? Che cos'è l'attitudine di bodhicitta? È una mente principale. Perché è una mente principale? A chi non è d'accordo con questo? Ah. È una mente principale. Cosa significa che è una mente principale? Cioè, questa risposta non è corretta. Come? Questa risposta che ho dato non è È una mente principale, no? corretta. Il bodhicitta è Sì, una mente però principale. non è proprio. Cioè, è una mente principale, però c'è da dire qualcosa di più. So che c'è da dire qualcosa di Sì, più. lo diremo dopo. Quindi non è un fattore mentale. Allora, quando guardiamo le divisioni della mente, la mente si divise in, possiamo dividere la mente in due, in coscienze principali o mente principale e fattori mentali, ok? Quindi le mente principali sono sei. Abbiamo cinque coscienze sensoriale e una coscienza mentale, ok? E i fattori mentali nel nostro sistema ne contiamo 51, anche se non è una classificazione definita, ok? Ne abbiamo 51. Quindi questi fattori mentali sono divisi in fattori mentali onnipresenti, determinanti, virtuosi, non virtuosi, neutre, ok? Quindi questi fattori mentali sorgono simultaneamente con la mente principale, sono nel seguito di questa mente principale, un po' come il re e i ministri, ok? Il re e i ministri. Quindi la mente principale ha una funzione di cogliere l'entità dell'oggetto, ok? Per esempio, la coscienza visiva percepisce sagome e colori. Okay. Qual è la funzione dei fattori mentali? Quindi i fattori mentali vanno invece non a realizzare l'entità principale dell'oggetto, ma delle caratteristiche degli oggetti. Okay. Questa è la funzione dei fattori mentali. Colgono le varie caratteristiche dei fenomeni. Quindi bodhicitta è una mente principale. Quindi non è per esempio come l'amore o la compassione, o l'attaccamento, l'avversione, che sono dei fattori mentali che accompagnano delle menti principali, ok? Quindi abbiamo dell'attaccamento che è nel seguito di una coscienza mentale, l'attaccamento nel seguito di una coscienza visiva, olfattiva, tattile, dipende dai vari oggetti. Per esempio, se entro in contatto visivo con una forma, una sagoma piacevole, automaticamente abbiamo dell'attaccamento nel seguito di questa coscienza visiva che rende tutta la mente afflitta. Okay? Quindi, dovuta alla concomitanza con l'afflizione, l'entità della mente è afflitta, o se invece è un fattore mentale virtuoso, come per esempio la fede, allora tutta la mente diventa virtuosa. Quindi la bodhicitta è una mente principale. Okay? Quindi, per essere una mente principale, ovviamente non può essere una coscienza sensoriale, deve essere necessariamente una coscienza mentale. Allora, di solito nella presentazione generale, okay, ogni mente ha un solo oggetto di osservazione, nel senso che la coscienza visiva simultaneamente può osservare solo un unico oggetto. Per esempio, se io ho la coscienza visiva che osserva il blu, la coscienza visiva che osserva il blu non può allo stesso momento realizzare il verde. Quindi una coscienza, un oggetto di osservazione, ma anche un'aspirazione, un'intenzione, una sensazione, una discriminazione, un contatto, un impegno mentale, eccetera. Okay? Quindi i fattori mentali non sono doppi nel seguito di un'unica coscienza. Quindi possiamo avere varie coscienze simultaneamente, nel senso che adesso simultaneamente avete una coscienza visiva, una coscienza uditiva, avete una coscienza tattile, questo va bene, ma non possiamo avere simultaneamente due coscienze visive. E la nostra coscienza visiva non può realizzare due oggetti diversi. È la stessa cosa per i fattori mentali che sono nel seguito di queste coscienze. Quindi qui, se guardiamo la definizione della mente di bodhicitta, abbiamo è il desiderio di ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi abbiamo molte cose qua dentro, ok? Quindi sappiamo che una coscienza mentale principale, una coscienza mentale principale, ok? Però sembrerebbe che abbia due oggetti di osservazione, perché osserva l'illuminazione e osserva anche il beneficio altrui. Quindi ecco perché la mente di Bodhicitta è necessariamente una mente principale, perché solo una mente principale ha la capacità di, come si dice, di raggruppare nel suo seguito queste varie osservazione e aspirazione. Quindi necessariamente una mente principale. Della stessa sostanza, come si dice. La stessa sostanza significa, dipende come l'interpreti, cosa intendi per varie Quella sostanze. cosa che hai detto. Ok, va bene. Okay. Quindi hanno le cinque concomitanze. Uno essendo sostanza. In questo contesto sostanza, sì, dal punto di vista delle scuole superiori, è virtuosa o non virtuosa, o dalle scuole inferiori, è che c'è un solo fattore mentale della sensazione nel seguito di una coscienza, eccetera. Okay? Quindi hanno cinque concomitanze. Quindi solo una, allora, per creare, questa mente va creata, okay? Va creata, è il risultato dell'addestramento per lungo tempo e quindi il sorgere di questa mente principale, okay? Mentale, questa coscienza mentale, che è in grado di simultaneamente osservare due oggetti con due aspirazioni diverse. Questo nello stato attuale non accade mai, è una cosa impossibile per la dinamica mentale presente attuale. Okay? Abbiamo una mente che osserva un oggetto, abbiamo una sola aspirazione, è riverso questo oggetto. Okay? Quindi questa è l'unica mente che esiste in quel modo, con due oggetti di osservazione, con due aspirazioni diverse. Quindi osserva l'illuminazione completa nel proprio continuum, quindi c'è questa aspirazione a aggiungere quell'oggetto di osservazione che si chiama un oggetto di intento in questo contesto, e allo stesso momento osserva la felicità degli altri, okay? Osserva la pacificazione della sofferenza o la felicità degli altri, quindi ha questa aspirazione alla pacificazione della sofferenza altrui. Quindi solo una mente principale è in grado di fare questa cosa. Quindi ecco perché è importante di conoscere, di sapere questa cosa, perché quando meditiamo su Bodhicitta, no? Le varie sequenze e generiamo quindi il modo di meditare sulla mente di Bodhicitta è generare la nostra mente nell'entità di questa mente. Non è che osserviamo, non c'è due modi, abbiamo visto due modi di meditare. O tramite osservare, o tramite generare la mente nell'entità dell'oggetto meditato. Per esempio, l'amore, l'equanimità, la compassione, la mente di Bodhicitta, generiamo la mente nell'entità di queste attitudini. Invece l'impermanenza sottile, la vacuità, la sofferenza si va a osservare. Quindi, quando meditiamo su Bodhicitta, dobbiamo generare questa mente con questi due oggetti di aspirazione, due oggetti di osservazione, queste due aspirazioni, altrimenti non è una meditazione sulla mente di Bodhicitta, o incompleta, e quindi automaticamente il risultato non sorgerà mai. Quindi dobbiamo fare attento a questo, no? Quando meditiamo, sì, dobbiamo quindi avere questi due oggetti di osservazione e queste due aspirazioni. Questo essendo detto, quindi abbiamo l'aspirazione. Un'aspirazione per se stesso, che è l'ottenimento dello stato di Buddha, l'ottenimento dell'illuminazione, è un'aspirazione a condurre gli altri, esseri senzienti, alla cessazione della sofferenza. Quindi la mente di Bodhicitta osserva il nirvana nel proprio continuum e il nirvana nel continuum degli altri. Un'altra cosa. La mente di Bodhicitta non è che prima c'è prima il desiderio di ottenere l'illuminazione e dopo, una volta che abbiamo ottenuto l'illuminazione, il desiderio di beneficiare gli altri. Non è così. Cioè, lo scopo principale del Bodhisattva è il pacificare la sofferenza degli altri. Questo è lo scopo principale. E come può attualizzare il suo scopo? tramite l'ottenimento dello stato di Buddha. È così che funziona la sua mente, no? È come quando vogliamo bere, ok? Prima bisogna avere un bicchiere, e dopo possiamo effettivamente mettere il liquido dentro. Quindi lo scopo principale non è di ottenere il bicchiere, è di bere il liquido. Nello stesso modo, lo scopo principale, del Bodhisattva è la pacificazione della sofferenza altrui. Il mezzo per poter realizzarlo è l'unico mezzo è l'ottenimento dello stato di Buddha. Quindi quando la bodhicitta viene divisa in termini, ok, quindi ci sono 10, li facciamo velocemente, 10 benefici a sviluppare la mente di bodhicitta, 10 benefici. Il primo è che si entra nel grande veicolo, cioè è la porta d'entrata, infatti la generazione della mente di bodhicitta è la porta d'entrata al Mahayana. Sia sutra che tantra. Okay? Quindi quando una persona genera la mente di illuminazione spontaneo, quello spontaneo, okay? Simultaneamente entra nel Mahayana e prende il nome Bodhisattva. Simultaneamente. Okay? Quindi generare la mente di Bodhicitta è molto molto difficile. Molto difficile. Okay? È più facile realizzare la vacuità che di generare la mente di bodhicitta. Quindi perché si appoggia sulla mente di grande compassione. Quindi la mente di grande compassione è facile a capire cos'è la mente di grande compassione, ma è molto difficile da realizzare. La vacuità è difficile a capire, ma è facile da realizzare, più facile da realizzare. È una cosa logica, la vacuità, una cosa logica. La mente di grande compassione è un'attitudine. Bisogna cambiare qui. Allora, la prima quindi è la porta d'entrata nel Mahayana. Quindi a quel momento, secondo beneficio, è che uno diventa quello che viene chiamato un figlio, una figlia dei Buddha o dei conquistatori, che cioè il Bodhisattva, diventa Bodhisattva. Il terzo beneficio è che uno sorpassa, dice così, sorpassa gli oditori e realizzatori solitari. Okay? Quindi il sorpasso si fa tramite il lignaggio. Okay? Per esempio, se prendiamo questo è nel primo capitolo del Madhyamika Avatara, infatti c'è una porzione su questa, come normalmente il Bodhisattva sorpassa gli oditori e realizzatori solitari aria dal settimo terreno, perché dal punto di vista della saggezza sono uguali, perché tutti realizzano il significato del sorgere dipendente, no? La vacuità di senza intrinseca, la mancanza di senza intrinseca. Quindi dal punto di vista della saggezza, ok? Fino al settimo terreno, all'ottenimento del settimo terreno, non c'è differenza tra un realizzatore solitario, un oditore o un bodhisattva aria. Cosa accade al settimo terreno? Al settimo terreno, dovuto all'ottenimento della perfezione della saggezza, l'addestramento particolare, il Buddha e il Bodhisattva è in grado di entrare in assorbimento e di uscire dall'assorbimento della vacuità in uno schiocco di dita. Quindi realizza la vacuità in uno schiocco di dita e si miscola la mente direttamente alla vacuità in uno schiocco di dita e è in grado di sorgere in uno schiocco di dita. C'è un'altra scuola che divide uno schiocco di dita in 65 istanti e dice che no, è uno 1,65 di questo, comunque non cambia molto. Quindi dal settimo terreno in poi il Bodhisattva sorpassa gli oditori e gli oditori solitari dal punto di vista della saggezza, prima no. Ma da un altro canto possiamo dire che già dal primo terreno gli oditori e i roditori solitari sono sorpassati dal punto di vista del lineaggio, visto che è esattamente come un principe quando nasce, no? Sorpassa tutti i ministri, anche se hanno delle qualità, sorpassa dal punto di vista del suo lineaggio, perché è principe, diventerà re. Quindi dal punto di vista del lineaggio sono sorpassati, esattamente in questo contesto il Bodhisattva già dal primo terreno sorpassa gli uditori e gli uditori solitari dal punto di vista del lignaggio, perché otterrà l'illuminazione completa. Gli altri due non ancora. Ok? Il quarto beneficio, uno diventa un oggetto di venerazione dal lato degli uomini, degli esseri umani, okay? E dei dei. No, Bhagavan è un epiteto del Buddha. Buddha Bhagavan, sì. Bhagavan è il distruttore, il conquistatore, una cosa del genere, mi ricordo. Il quinto beneficio, conquer. Il quinto beneficio è che una grande quantità di virtù, cioè di meriti, di energia virtuosa, viene accumulato istantaneamente. Cioè, il Bodhisattva, dovuto al potere della sua motivazione, con poco sforzo, con un'azione molto semplice come offrire una candela o un fiore a uno stupa o davanti a una statua, visto che la sua mente, no? La sua mente osserva l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi tutti gli esseri senzienti sono osservate, sono oggetto di osservazione della sua mente. Visto che ha questa motivazione, allora il potere delle sue azioni sono straordinarie. Lo vedremo più avanti. Molte negatività sono purificate in un istante, anche dovuto al potere di questa mente. Tutti i scopi vengono esauriti. Okay? E uno non riceve ostacoli o danni, okay, da altre entità, dovute al potere di questa mente, interferenze. Ok? E uno molto velocemente, quindi ovviamente, parcorre i vari terreni. Allora si parla di terreni perché la carriera, possiamo metterla così, la carriera del Bodhisattva, ci sono cinque sentieri. Abbiamo il sentiero dell'accumulazione, sentiero della preparazione, sentiero della visione, sentiero dell'abitazione e il sentiero di là dell'apprendimento, che è mutualmente inclusivo con stato di Buddha. Però il sentiero dell'abitazione e della visione sono divisi in 10 terreni, okay? Il primo terreno, il sentiero della visione, e dopo abbiamo altri 9 terreni. I terreni sono suddivisione della mente dell'illuminazione ultima, okay? Che è la saggezza suprema dell'equilibrio meditativo del Bodhisattva, che realizza direttamente la vacuità. Quando la vogliamo dividere dal punto di vista delle sue qualità, allora abbiamo 10 terreni. Beh, altrimenti, quindi è la coscienza, non sono i terreni esterni, è la coscienza che ha in sé queste varie divisioni. Uno diventa, è l'ultimo beneficio, che uno diventa una fonte di pace, di felicità per tutti gli esseri senzienti. Okay? Questi sono i 10 benefici dell'aver generato la mente di bodhicitta. È importante riflettere su questi benefici. E comunque è uno dei precetti della mente di Bodhicitta. Se avete preso i precetti della mente di Bodhicitta, okay, o se avete preso i voti del Bodhisattva, quindi necessariamente l'avete anche, uno di questi è di riflettere sui benefici della mente di Bodhisattva. Ecco perché, la mente di Bodhicitta, ecco perché nel Guru Yoga in sei sezione c'è una sezione che dice: no, oggi sono molto fortunato, bla bla bla, perché questo entra, con la recitazione di questa, questo impegno viene salvato, okay? Di meditare sui benefici della mente di Bodhicitta per sempre, far crescere questa aspirazione. No. Questa è una parentesi. Ok, se vogliamo divisare la mente di Bodhicitta in termini di entità, abbiamo due. Abbiamo la mente di bodhicitta dell'aspirazione e la mente di bodhicitta dell'impegno. La mente di bodhicitta dell'aspirazione è simile al desiderare andare. Okay? Per esempio, c'è un viaggio, generare il desiderio di andare in India. Okay? Quindi generare il mero desiderio di ottenere l'illuminazione. Questa è la mente di bodhicitta dell'aspirazione. Quindi prima si incomincia con questo. Allora, dal momento in quale c'è la presa dei voti del Bodhisattva, allora questo diventa la mente di Bodhicitta dell'impegno. questo elemento di bodhicitta dell'impegno, perché i voti del bodhisattva sono impegni nella pratica delle sei perfezioni. Se guardate bene, i voti del bodhisattva abbiamo i 18 principali e i 46 secondari sono divisi in termini delle sei perfezioni. Quindi rispettando certi voti, uno necessariamente pratica o è spinto a praticare la perfezione della generosità, dell'etica, della pazienza, dello sforzo, della concentrazione, della saggezza, e poi ne abbiamo altri 12 che sono precetti generali al beneficiare gli altri in varie circostanze. Comunque, questo potete leggere. Ok, quindi, quindi la mente di Bodhicitta dell'impegno è simile a, cioè, comprare il biglietto, prendere l'aereo e andare. Okay? E quando uno quindi è coinvolto nelle attività delle sei perfezioni. Qui sarebbe, quindi, sarebbe cosa da dire. Quindi possiamo avere anche una divisione terminologica della mente di Bodhicitta, quindi abbiamo la mente di Bodhicitta convenzionale e la mente di Bodhicitta ultima, come dicevo prima. La mente di Bodhicitta ultima non è una mente di Bodhicitta, è la saggezza dell'equilibrio meditativo che realizza direttamente la vacuità nel continuum di un bodhisattva. Quindi questo non è una mente di Bodhicitta, però terminologicamente viene meramente imputata bodhicitta ultima. Quindi la bodhicitta vera è la bodhicitta convenzionale, che può essere di due tipi, o dell'aspirazione o dell'impegno. Avete delle domande su questo? È chiaro? Delle domande circa la mente principale, Ok, vai. perché dicevi che abbiamo sei tipi di mente principale, cinque collegate agli organi sensoriali e Okay. uno alla mente, Mentale, uno una mentale 5 coscienze sensoriali. e una coscienza mentale. Però dicevi che solitamente a livello ordinario non riusciamo con tutti utilizzando una delle sei coscienze a focalizzare l'attenzione su due oggetti. Era Ecco, una mente ha un oggetto di osservazione. Quindi che sia la mente sensoriale, che sia la coscienza sensoriale o coscienza mentale, ha solo un oggetto di Sì, osservazione. ci sono delle eccezioni, ma in generale è così. Ok, quindi dicevi che la mente di Bodhicitta ha questa particolarità che riesce ad avere due oggetti di. Con due aspirazioni diverse, sì. Due Quindi due oggetti oggetti di di osservazione osservazione. con due aspirazioni che osservano questi due oggetti in un modo particolare. Ok. E poi dicevi che per fare la meditazione sul bodhicitta o si lavora in questo verso di avere queste due No, osservazioni. no, no, no, no. Io non l'ho capito bene. Non è che hai scelta qui. Quando cerchi di meditare sulla mente di Bodhicitta, devi cercare di meditare, di generare tale mente con due oggetti di osservazione e due aspirazioni. Ok, l'ho capito bene. Come si fa? Se normalmente uno Come riesce si a. fa? Lo vedremo più avanti. Vedremo che c'è l'estramento, sei No, cose in come effetti, come dire, si sta allora, sbagliando. fino a quando non si genera una mente che è in grado di osservare due oggetti, non si può neanche meditare sulla mente di Bodhicitta. No, no, no, lo puoi fare, lo puoi costruire questa mente, la puoi costruire. Se tu fai attento nella tua meditazione, sei in grado di produrre una mente che osserva queste due cose e con due aspirazioni rispettive. Possibile. Allora non è definitivo che la mente può osservare, una coscienza mentale può osservare solo un oggetto, ne può osservare anche due. Ah no, non è definito, la prova è che È abbiamo... la mente di Bodhicitta la prova che si può Sì, che si può fare. fare. Però noi normalmente uno non riesce a farlo, No. per una questione di. Per una questione di meccanica, semplicemente meccanica. No. Perché? Perché siamo. Perché? Perché la perfezione di un fenomeno ostacola la perfezione di un altro fenomeno. No. Questo è il modo di funzionare della mente. Com'è che si bypassa? Ok, Devi eliminare le oscurazioni cognitive. Quindi va a tenere lo stato di Buddha. A quel momento potrà osservare simultaneamente tutti gli oggetti dei tre tempi, simultaneamente. Nel senso che questo cosa significa? Significa che le tue sei coscienze diventano onnisciente. Nel senso che tu metti il dito nel caffè e puoi vedere se è troppo zuccherato, se viene dalla Colombia, se vedere, cioè tutte queste No, cose. non chiedevo questo. Chiedevo, noi normalmente per una questione di meccanica, hai detto, non riusciamo a osservare due oggetti con le nostre coscienze. Però hai detto che per sviluppare la mente di Bodhicitta si deve sviluppare questa meccanica, cioè va sviluppata questa Sì, meccanica. tramite il processo di riflessione, tramite il processo meditativo. Prova, prova. Ah, quindi E tramite la meditazione si dopo possono ne parliamo. osservare due oggetti. Sì. Ma solo con la coscienza mentale o con le coscienze sensoriali pure? Cosa pensi? No, meditazione ha a che fare con la coscienza sensoriale. Che ne so. Ok, quindi abbiamo due tipi di bodhicitta. Ok. Poi abbiamo tre tipi di mente per generare la mente di bodhicitta, tre tipi di mente, okay? Che sono tre tipi di attitudine. Quindi quello che dobbiamo cercare di generare è l'ultima, okay? Quindi abbiamo la mente di bodhicitta simile al re, la mente sì di bodhicitta simile al capitano, capitano della nave, e la mente di bodhicitta simile al pastore. Dice così pastore, ok? Quindi sono tre, tutti questi tre sono tre mente di bodhicitta, sono tre risultati di addestramento, però hanno un'attitudine, c'è cioè hanno una sfumatura diversa, ok? Quindi la più potente è l'ultima, anche se è impossibile, se il suo risultato è impossibile, questa aspirazione è la più potente e è quello che ci permette di ottenere più velocemente lo stato di Buddha. Quindi la prima è la mente di bodhicitta simile al re. Quindi la mente di bodhicitta simile al re esattamente, no? Divento Buddha e dopo svolgo il beneficio e porterò dopo gli altri a questo stato. Okay? Divento Buddha e porto gli altri a questo stato. Quindi esattamente come il re si prende cura dei suoi soggetti, abbiamo la mente di bodhicitta simile al re. Poi abbiamo la mente di bodhicitta simile al capitano, al pilota, okay? Quindi al capitano della nave. Quindi quando una nave parte, okay, il capitano e i viaggiatori, l'equipaggio, arrivano insieme a destinazione. Quindi qui è già un livello superiore di attitudine altruistica, okay? Perché insieme, atteniamo insieme, tutti insieme, lo stato di Buddha, il nirvana senza dimora, no? Questa è l'attitudine di questo Bodhisattva, quindi già sentite che è un po' più potente, no? E poi abbiamo la bodhicitta simile al pastore, esattamente come il pastore, no? Quando prende cura di che cosa? Il pastore del campo, delle pecore, ok? Quindi alla fine della giornata, no? Lui prima fa entrare tutte le pecore nel recinto. Okay, le mette al caldo, gli dà da mangiare, da bere, eccetera, e dopo lui va a casa, mangia e si riposa. Quindi nella mente di Bodhicitta è simile al pastore, quindi c'è questo desiderio di prima gli altri, io ultimo, io secondo, conto di meno, primo gli altri e dopo io. Okay? Quindi questo tipo di Bodhicitta è quello che Manjushri aveva generato. Però in realtà lui l'ha già generato. No, ma anche Sì. durante il suo addestramento, si dice che è la bodhicitta che Manjushri aveva generato molti eoni fa, quando ha ottenuto lo stato di Buddha. Quindi, se guardiamo bene, è ragionevole questa mente di bodhicitta simile al pastore? Perché no? Illustra la cosa. Cioè, è giusto pensare di No, quello. io non ti dico se è giusto pensare, ti dico se è ragionevole nella Cioè, se realtà. razionalmente è possibile. No, No. uno che non è Buddha può portare altri a purità. Esatto, ok? Quindi lo stato di Buddha, nel senso che per portare gli altri allo stato di Buddha, uno ci deve essere già dentro, deve già dimorare in questo stato. Quindi nella realtà non funziona in quel modo, però è quel tipo di attitudine che ci porta molto più velocemente al risultato, è più potente. E poi possiamo distinguere anche quattro livelli alla mente di bodhicitta. Quindi vi ricordate la carriera del bodhisattva l'abbiamo divisa in cinque sentieri: accumulazione, preparazione, visione, meditazione è al di là dell'apprendimento. Al di là dell'apprendimento è lo stato di Buddha. Quindi è importante conoscere queste cose. Allora, quando uno genera inizialmente la mente di bodhicitta, quella vera, no? Quella che sorge spontanea, che sorge da un lungo addestramento, okay? Uno entra sul sentiero dell'accumulazione a quel momento. Sentiero dell'accumulazione, quindi si accumulano a molti insegnamenti, si accumula molte virtù, eccetera, eccetera. E quindi a questo livello uno medita sulla vacuità sostenuto principalmente dalla mente del calmo, cioè non principalmente, dalla mente, sì, principalmente, dalla mente del calmo dimorare. Calmo dimorare, quindi concentrazione univoca. Questa persona cerca, questo Bodhisattva, quindi cerca a questo momento di, quindi lo scopo è di realizzare la vacuità direttamente. Perché è questo la gente che purifica la coscienza dai due livelli di ignoranza, no? L'ignoranza afflittiva e l'ignoranza cognitiva. Quindi il suo scopo è questo. Quindi cerca di, per realizzare la vacuità direttamente, cerca di associare quindi la concentrazione, grande concentrazione, con un potere analitico molto penetrante, che gli permette quindi di penetrare l'oggetto. Okay? Il problema è che a questo livello, no? Quando uno è in un processo analitico, perde la concentrazione univoca. E quando si concentra in un modo univoco, perde la capacità penetrante dell'analisi. Quindi il suo lavoro sul sentiero dell'accumulazione e quindi cerca di associare il calmo dimorare e la visione speciale, no? La mente analitica molto penetrante, che realizzano la vacuità. Quando riesce a associare il calmo dimorare con la visione speciale, penetrante, sì, shamatha e vipassana, no? Che realizzano la vacuità, entra sul sentiero della preparazione. Su questi due livelli, la realizzazione della vacuità è sempre tramite una generalità del significato, è indiretta, non è una percezione diretta, tramite una rappresentazione concettuale. Però è qualcosa di molto potente che comunque è in grado di pacificare le afflizioni. La concentrazione, anche la concentrazione non su un oggetto come la vacuità è chiaro che pacifica le afflizioni, ma anche un buon potere di concentrazione ha la capacità di rendere le afflizioni non manifeste. Non le elimina, ma le rende non manifeste. Quindi questo Bodhisattva dopo continua sul sentiero della preparazione a meditare sulla vacuità, con quest'unione del calmo dimorante, la visione speciale, quindi che è la a quel momento la concentrazione, più la concentrazione è potente, più la capacità analitica è potente, più la capacità analitica è potente, questo rinforza anche la concentrazione. I due, diciamo che sono concomitante, perché quando uno viene sviluppato, anche l'altro viene sviluppato. A un certo punto, alla fine del sentiero della preparazione, quindi è abbastanza lungo, all'ultimo livello arriva in una sessione, no? Della fine del sentiero della preparazione, a un certo momento arriva a percepire la vacuità direttamente, quindi la sua mente non osserva più la vacuità tramite questa rappresentazione concettuale, ma la sua mente si miscola con il significato della vacuità in un modo non duale. A quel momento è impossibile fare distinzione tra un soggetto che sta meditando e un oggetto che viene meditato. L'unica cosa che appare alla mente è l'assenza di essenza intrinseca, la vacuità, nient'altro. Non c'è la nozione di un io, non c'è la nozione di una mente, non c'è una nozione, cioè niente, solo la percezione della vacuità appare. A quel momento questa è la percezione iniziale della realtà e questo si chiama il sentiero della visione. Sentiero della visione. Quindi dal sentiero dell'accumulazione, dall'entrata iniziale del sentiero dell'accumulazione, fino al sentiero della visione, un eone incommensurabile, dal punto di vista dei sutra, un eone incommensurabile. Allora il sentiero della visione, l'equilibrio meditativo in sé, non entriamo nelle divisioni, in sé è molto breve, okay? Può essere pochi istanti. Quando sorge dopo quello che viene chiamato l'ottenimento sosseguente, cioè il post-meditativo, okay? Allora, il Bodhisattva continua è diventato un'aria, okay? Quindi è un superiore, ha una percezione diretta della realtà nel suo continuum, e da questo momento in poi tutte le azioni che lui fa, okay, non sono più cause per rinascere nell'esistenza ciclica. È impossibile. Anche se lui commette delle azioni non virtuose, poco probabile, non può più creare del karma nuovo per rinascere nell'esistenza ciclica. Quindi questo Bodhisattva continua a praticare le sei perfezioni, a maturare il continuum degli altri, eccetera, finché la mente, allora, sul sentiero della visione, ha eliminato i livelli di oscurazione che sono intellettualmente acquisite, non quelle innate, tutti i livelli di ignoranza che sorgono dovuto ai contesti culturali, sociale, religioso, l'adesione a sistemi filosofici erronee, tutti questi livelli acquisiti intellettualmente, dovuti alla cultura anche. Quando la sua mente, quindi continua, cerca di meditare sulla vacuità, eccetera, però quando la sua mente è abbastanza potenzializzata, no, dalle sue virtù pratiche altruistiche, per attaccare i livelli innate di ignoranza, quindi quando è in grado di generare una saggezza suprema dell'equilibrio meditativo, che elimina il primo livello, il livello più grossolano dei livelli innate di ignoranza, a quel momento è il sentiero della meditazione. Il sentiero della meditazione è diviso in 10 tereni, okay? Dove il Bodhisattva progressivamente elimina i 81 livello della concezione di vera esistenza. Allora, fino al settimo tereno viene eliminato la concezione di vera esistenza, okay? Quindi fino al settimo tereno il Bodhisattva elimina l'ignoranza. Dall'ottavo tereno in poi non c'è più ignoranza, ma rimangono quelle impronte dell'ignoranza delle quali abbiamo parlato prima. Quindi queste impronte dell'ignoranza sono eliminate sull'ottavo, il nono e il decimo tereno. Quindi alla fine del decimo tereno, allora dal primo tereno alla fine del settimo tereno, un eone incommensurabile, ottavo, nono e decimo tereno, un eone incommensurabile. Quindi la carriera del Bodhisattva dal punto di vista del Sutra sono tre eoni incommensurabili. Quando alla fine del decimo tereno, no? Quindi è rimasto questo livello sottile del sottile dell'oscurazione alla conoscenza, allora il Bodhisattva si assorbe, quindi genera questo equilibrio meditativo che realizza direttamente la vacuità, che funge di antidoto a questo livello di ignoranza, e l'istante dopo è lo stato di Buddha. Però è particolare perché da quel momento in poi il Bodhisattva non sorge più nel post meditativo. Prima dello stato di Buddha c'è il post meditativo, nel senso che la vacuità può essere percepito solo quando il Bodhisattva sta meditando e realizza direttamente la vacuità. Quando realizza direttamente la vacuità, percepisce solo la vacuità, neanche non c'è neanche la nozione di persona, non percepisce altri fenomeni convenzionali. Invece, quando dopo questa meditazione si finisce e che il Bodhisattva sorge nell'ottenimento seguente, a quel momento il Bodhisattva non percepisce più la vacuità, non la può percepire, ma percepisce i fenomeni convenzionali. Quindi c'è un equilibrio meditativo e un ottenimento seguente. L'ottenimento seguente è il post meditativo. Nello stato di Buddha non c'è più l'ottenimento seguente. Quindi il Buddha è emerso per sempre nella percezione diretta della vacuità. Quindi, sì, percezione diretta della vacuità. E come fa per effettivamente realizzare i fenomeni convenzionali. Quindi questo lo comprenderemo più avanti quando studieremo insieme un po' le due verità e capire che tutti i fenomeni hanno lo stesso sapore dal punto di vista ultimo. È dal punto di vista ultimo che la mancanza di essenza intrinseca non c'è differenza tra il tavolo, tra la mia mente, tra il mio corpo, dal microfono, tra la terra, cioè tutti i fenomeni hanno la stessa natura, okay? E questa natura è di un sol sapore a livello ultimo. Quindi, visto che la mente è immersa in questa natura ultima, che è unica, non sto dicendo che la natura del tavolo è la natura del bicchiere, perché la natura del bicchiere è la mancanza intrinseca del bicchiere. Attento a questo, visto che è per la mente che arisa direttamente alla vacuità, è di un unico sapore, visto che questa mente è immersa nella realtà ultima di tutti i fenomeni e che il Bodhisattva ha eliminato, il Buddha ha eliminato quindi questi veli che impediscono la comprensione simultanea delle due verità, automaticamente appaiono anche i fenomeni convenzionali alla sua mente. Ci prolungheremo in questo più avanti. Quindi il perché è possibile percepire simultaneamente tutti i fenomeni è perché il Buddha percepisce la natura ultima di tutti i fenomeni, e questa natura ultima di tutti i fenomeni è di un unico sapore. Di un unico sapore. Ok, quindi possiamo, in termini dei cinque tereni, possiamo anche dividere la bodhicitta in quattro. Abbiamo la bodhicitta dell'aspirazione. La bodhicitta dell'aspirazione è la bodhicitta che esiste sui primi due tereni, i primi due livelli, accumulazione e preparazione. Poi abbiamo la bodhicitta dell'intenzione superiore, che è la bodhicitta che esiste dal primo tereno al settimo tereno. Poi abbiamo la bodhicitta completamente matura, che è quella che esiste sull'ottavo, il nono, il decimo tereno, e per fine abbiamo la bodhicitta dell'abbandono, dell'oscurazione, che esiste sul terreno di Buddha, nello stato di Buddha, perché anche il Buddha ha la mente di bodhicitta, quindi ci sarebbe dei discorsi anche su questo. Ok? Quindi vedete che la bodhicitta, se incominciamo a metterci il naso dentro, è una cosa molto complessa. Però è importante conoscere questi vari aspetti perché è ciò che vogliamo sviluppare. Lo sviluppo della mente di bodhicitta, dell'attitudine altruistica, questo deve essere la nostra pratica principale, dovrebbe, il condizionale qui, è di rigore. E poi possiamo anche nell'Abhisamayalankara, la bodhicitta è divisa in termini di 22, abbiamo 22 tipi di bodhicitta, che illustrano i progressi sul sentiero di questo Bodhisattva. Okay? Quindi, per esempio, al sentiero dell'accumulazione abbiamo tre tipi di bodhicitta. Abbiamo la bodhicitta simile alla terra. Quando si entra, abbiamo una bodhicitta simile alla terra, perché esattamente come la terra è il supporto di tutto ciò che esiste, questa bodhicitta diventerà il supporto di tutte le qualità. Okay? Poi questo è il livello piccolo del sentiero dell'accumulazione. A livello intermedio abbiamo la bodhicitta simile a loro. A livello grande abbiamo la bodhicitta simile alla luna. Allora, il bodhisattva può degenerare finché non è attualizzato la bodhicitta simile a loro. Una volta che il bodhisattva quindi arriva al sentiero intermedio del sentiero dell'accumulazione, genera questa bodhicitta simile a loro. Esattamente come loro, anche quando è immerso sottoterra, non so per quanti anni, cioè non è mai attaccato, la sua purezza rimane. Il Bodhisattva che ha attualizzato la bodhicitta simile a loro non può più scendere, degenerare nel suo veicolo, perché è possibile, no? Che certi praticanti generano la bodhicitta simile alla terra e dopo cadono nel veicolo individuale. Ok? Quindi abbiamo 22 tipi di bodhicitta. E adesso entriamo nel il come sviluppare la mente di bodhicitta. Quindi la mente di bodhicitta è qualcosa di complesso e abbiamo bisogno di molte condizioni per sviluppare. Quindi abbiamo bisogno, ci sono delle cause per sviluppare la mente di bodhicitta, ci sono dei stadi di addestramenti. E poi vedremo il criterio di aver attualizzato questa mente di bodhicitta. In termini di cause, per la mente di bodhicitta possiamo distinguere quattro circostanze, quattro cause e quattro poteri. Quindi le quattro circostanze per generare la mente di bodhicitta, allora può essere uno di queste quattro, nel senso che adesso qui vediamo quattro circostanze che possono spingere una persona a sviluppare la mente di bodhicitta o addestrarsi nello sviluppo della mente di bodhicitta. Okay? Il primo è, per esempio, il percepire direttamente le qualità inconcepibili del Buddha. Uno le percepisce, uno vede il Buddha e dice: le voglio anch'io. E quindi genera e si addestra nella mente di bodhicitta. Quindi per questo per noi è un po' difficile. Quindi uno potrebbe anche sentir parlare di queste qualità. Sentir parlare di queste qualità, quindi studiando per esempio il Madhyamika o l'Abhisamalankara, dove vengono presentati in dettaglio le qualità del Buddha, uno genera il desiderio di attualizzare anche lui queste qualità. È ispirato. Il secondo è ricevere insegnamenti. Insegnamenti, quindi sì. Sì, ricevere insegnamenti sulle qualità del Buddha da una guida spirituale, e quindi sviluppare la fede. Il terzo è uno pensa che l'insegnamento del Mahayana, quindi uno ha un grande apprezzamento per il Mahayana, però percepisce che il Mahayana sta degenerando, che tra un po' di tempo non ci sarà più nessuno che sarà in grado di praticarlo. Okay? Allora uno prende su di sé la responsabilità di generare la mente di bodhicitta per evitare che il veicolo Mahayana scompare. Quindi assuma questa responsabilità in relazione all'inserimento Mahayana. Infatti, di solito, no? Quando ci avviciniamo al Dharma, abbiamo questa attitudine, no? Che cosa il Dharma può fare per me? Ci arriviamo con questo. Però a un certo punto la nostra attitudine dovrebbe cambiare e dovremmo pensare cosa io posso fare per il Dharma, okay? Nel senso che dopo la cosa dovrebbe essere aggiustata. E la migliore che possiamo fare per il Dharma è conoscerlo bene, metterlo in pratica e realizzarlo. Ma questa è la cosa migliore che possiamo fare. Okay? Allora, il quarto è uno percepisce che quindi che siamo nei tempi degenerati. In tempi degenerati le persone hanno molta ignoranza, non hanno nessuna vergogna, sono avari, le afflizioni sono rampante, e quindi questa persona percepisce la rarità di quel tipo di attitudine, di quel tipo di mente, no? Che aspira, quindi la difficoltà in queste condizioni, in queste circostanze interne e esterne, nelle quali siamo, di poter sviluppare quel tipo di mente. E quindi uno pensa: ma se ce la faccio a generare quel tipo di mente, forse altre persone saranno anche incline a sviluppare quel tipo di mente. Okay? Queste sono quattro circostanze che sono cioè all'inizio per spingere una persona a generare la mente di bodhicitta. Poi abbiamo quattro cause necessarie. Quattro cause necessarie. A queste quattro cause possono essere attualizzate o ottenute o, cioè, o tutte o une, o uno o due, ok? No, queste quattro cause no, sono no, no, e i quattro poteri che non tutti sono necessari. I quattro cause sono necessarie. Uno è il lineaggio, la prima è il lineaggio appropriato. Sapete che ci sono tre tipi di lineaggi. Abbiamo il lineaggio degli uditori, il lineaggio dei ritori solitari, è il lineaggio dei Bodhisattva, okay? Lineaggio dei Bodhisattva. Quindi in termini di lineaggio, uno è definito in un lineaggio o indefinito in un lineaggio. Uno che è definito in un lineaggio è una persona che anche se incontra gli insegnamenti di un'altra tradizione, per esempio, se uno è definito nel lineaggio degli uditori, anche se incontra gli insegnamenti dei ritori solitari o dei Bodhisattva, no. No, cioè, rimane è definito nel suo lineaggio, quindi è definito nell'attualizzare come primo passo, no? Il nirvana di un uditore. E se uno, per esempio, è definito nel lineaggio Mahayana, gli insegnamenti dell'Hinayana non lo fa per lui. Okay? E uno invece che è indefinito nel lineaggio è una persona che si addestra in un sentiero, attualizza un risultato in dipendenza di chi incontra. Ad esempio, se una persona incontra un maestro Hinayana, e che se lui è indefinito nel lineaggio Mahayana, entra e segue questa strada. Okay. Questo Quindi lineaggio appropriato è lineaggio Mahayana, quindi se non l'abbiamo lo dobbiamo sviluppare. Come si sviluppa il lineaggio Mahayana? Come viene attivato il lineaggio Mahayana con la generazione della mente di grande compassione? La generazione della mente di grande compassione determina l'attivazione del lineaggio Mahayana. Quindi, come sapere se abbiamo attivato il lineaggio Mahayana? Questo è molto, molto facile. Sì, quando uno sente parlare della sofferenza dell'esistenza ciclica, no? Si mette a piangere, questa persona è segno dell'attivazione del lineaggio Mahayana. Invece quando una persona sente parlare delle qualità della liberazione, di queste qualità della liberazione, eccetera, si mette a piangere, ossia delle lacrime sorgono, o i peli si rizzano quando sente parlare del nirvana o della sofferenza di esistenza ciclica in generale, questa persona è attivata il lineaggio Hinayana. Quindi il lineaggio Mahayana ha questi segni quando uno sente parlare della sofferenza degli altri. Quindi una volta che la grande compassione è stata attivata, cioè poco dopo si attualizza la mente di Bodhicitta, cioè poco dopo, siamo molto vicini qui. Il secondo è essere accettata, la quarta causa è essere accettata da una guida spirituale. Quindi questo significa ricevere l'insegnamento perfetto, privo di errore. Il terzo, è la compassione per tutti gli esseri senzienti. Questo significa una compassione, non biasimata, si dice così? No. Che non favorisce uno e non favorisce l'altro. Biased. Imparziale. Imparziale. Perché è una compassione imparziale per tutti gli esseri senzienti. L'altro è non essere scoraggiato o intimidato, si dice intimidato? Intimidito dalle difficoltà, da grosse difficoltà, possiamo metterla così, da grosse difficoltà. Quindi significa pazienza e sforzo gioioso, grande pazienza e sforzo gioioso. E abbiamo quattro poteri sulle quali dobbiamo appoggiarsi. Quindi abbiamo visto quattro circostanze che possono determinare il desiderio della mente di attualizzare lo stato di Buddha. Abbiamo visto quattro cause necessarie e adesso abbiamo quattro poteri sulle quali dobbiamo appoggiarsi. Quindi non tutti sono necessari. Quindi la bodhicitta può essere sviluppata appoggiandosi sul potere di se stesso. Cosa significa? Significa che uno assuma su di sé la responsabilità di liberare tutti gli esseri della sofferenza, quindi c'è un'attitudine di auto responsabilità, si appoggia proprio su di sé e di fiducia anche, e uno è pronto a produrre lo sforzo necessario per ottenere questo risultato. Questo è il primo potere, il potere del sé. Poi abbiamo il potere da altri. Il potere da altri è quando uno genera la bodhicitta appoggiandosi sugli altri per ottenere la propria la conoscenza per ottenere la conoscenza di ciò che è la mente di bodhicitta e coltivarla. Poi abbiamo il potere delle cause, il potere della causa, il terzo, è quando uno è potenzializzato a sviluppare la mente di bodhicitta dovuto a aver accumulato le cause appropriate nel passato. Questo è il potere della causa. E abbiamo la bodhicitta dal potere dell'applicazione. Quando uno genera la mente di bodhicitta ha dovuto essere familiarizzato per molto tempo con attività virtuose e riflettere su ciò che uno ha ascoltato. Allora, a Sangha, nei livelli del Bodhisattva, che è considerato come un'opera maggiore che descrive l'addestramento del Bodhisattva, dice che sì, la Bodhicitta viene sviluppata, quindi se ci appoggiamo sulle le quattro, se abbiamo ge generato le quattro cause, se abbiamo le quattro cause, e che sì, la bodhicitta viene generato appoggiandosi sul primo potere, il potere del sé, quindi la propria responsabilità. è il potere della causa, quindi aver accumulato in vite passate le cause della mente di bodhicitta, la bodhicitta viene generata in un modo molto stabile, molto forte, molto stabile. Invece ha con gli altri due poteri, il potere da altro, il potere dell'applicazione, c'è la possibilità di generare bodhicitta, ma non è così salda. Non è così salda. Quindi queste cose le potete trovare in dettaglio nell'Amrim Sheno. Ovviamente anche nei livelli del Bodhisattva. Ok, io mi fermerei qui per stasera, se avete un paio di domande, se non ci sono. Una domanda veloce. Quando il Buddha, abbiamo detto che ha due visioni contemporanee, no? La visione ultima e la visione convenzionale, no? Di fatto questo. No, non mi piace la tua terminologia. Di Il fatto. Bodhisattva, non è che ha due visioni convenzionali simultaneamente. Il Bodhisattva No, percepisce. Buddha. Il Buddha, sì, scusa, il Buddha ha due visioni, non ha due visioni, percepisce tutti i fenomeni. È questo che ti sto chiedendo, cioè la mia percezione di visione ed errore, io sto cercando, non è così, è così. Cioè, Sì. lui in contemporanea, cioè non è che una genera una e poi No, genera non ha un'altra. una parte dell'occhio che percepisce una cosa, una parte dell'altro che percepisce un'altra. No, No. no, no, no. Ecco, un'unicamente percepisce le due realtà simultaneamente. Così non è così. Con un'unicamente, per esempio, come dicevo prima, no? Per esempio, si mette, succede il caffè, il Buddha percepisce il caffè o mette il dito nel caffè, conosce simultaneamente tutti gli aspetti, c'è il zucchero, la temperatura, il gusto, ma percepisce con la sua coscienza sensoriale, perché la sua coscienza sensoriale è onnisciente, percepisce con la sua coscienza sensoriale tutti i fenomeni dei tre tempi. E la vacuità è anche la natura ultima di questi fenomeni. A ogni istante, okay, il Buddha realizza tutti i fenomeni e la natura ultima di tutti questi fenomeni. Con un'unica mente, non c'è 50.000 menti che partono in tutte le direzioni, non è che c'è due menti, una che realizza il convenzionale e l'altra che realizza l'ultimo, no, è un'unica mente che realizza simultaneamente i due aspetti della realtà. No. Così. Tutto Una cosa sulla bodhicitta aspirazionale, quella che abitualmente, cioè se tu chiedi a uno vuoi diventare Buddha per il benessere degli esseri senzienti, dice sì. Quel livello di bodhicitta non è nemmeno lì? Ok. livello Si è aspirazionale. congiunto, si è, non è? È già bodhicitta aspirazionale, No, e poi sì, è una bodhicitta dell'aspirazione, ma non è la vera bodhicitta. Perché la bodhicitta, se prendiamo le definizioni di Jitsun Shokhi Gyatso, no? La bodhicitta è un conoscitore mentale speciale principale che serve da porta d'entrata nel Mahayana e che sorge concomitante con le sue aspirazioni, eccetera. Quindi funge da porta d'entrata nel Mahayana. Quindi sì, sì, ha questa funzione, è la mente di bodhicitta, altrimenti no, è una similitudine, un facsimile. È un facsimile. Quindi noi, quando andiamo all'iniziazione, generiamo, quando facciamo le pratiche la mattina o quando prima dell'insegnamento, generiamo un facsimile di bodhicitta. Ha comunque la funzione di aggiustare la mente e fare che queste azioni fungano di cause per un certo tipo di risultato. Però la differenza, sincera, Geshe-la Pagyatso diceva che la differenza tra la bodhicitta così è la bodhicitta genuina, è la stessa differenza tra il zucchero e la canna da zucchero. Cioè la canna ha anche un po' il sapore del zucchero, no? Ma non è così come il zucchero pressato, no? Come la canna, il sugo della canna pressata. E quindi diceva che è come sì, è la, il legno, no? Come si chiama? The bark. Bark in inglese, così c'è. Sì, la corteccia. La corteccia, allora la bodhicitta è il sugo, è lo zucchero, è quella che generiamo non genuina, è la corteccia. Quindi ha un po', puoi masticare un po' il sapore del zucchero, però siamo anche molto lontani. Una cosa, che però non è collegata alla mente di Bodhisattva, però può essere funzionale tra qualche giorno, sì, il giorno dei miracoli. C'è qualche sutra dove parla, si racconta di questi 15 giorni di Buddha dove ha dato Sì, dimostrazione. c'è un sutra che non mi ricordo il titolo, mi sa che è tradotto in inglese sicuramente perché ce l'ho da qualche parte in camera, può darsi che è anche tradotto in italiano, non mi ricordo il nome di questo sutra, ma infatti in queste 2 settimane, infatti dicono che il giorno dei miracoli, che sarà il 15 del primo mese tibetano, tutti i meriti sono aumentati, cioè, però infatti sono tutti i giorni di questi Sì, primi sì, sì, 15 sì. giorni, però viene festeggiato nel 15, nell'ultimo, ma sono tutti i giorni perché in questi 15 giorni il Buddha ha dimostrato i suoi poteri tutti i giorni per 2 settimane per soggiogare i Tirthika, i non buddhisti che entravano in discussione, in gare con lui, no? Quindi per 2 settimane ha mostrato queste cose, sono delle cose eccezionali, no? Tipo tutte le persone nell'assemblea si ricordavano delle vite passate, o tutte le persone nell'assemblea per un po' di tempo sperimentavano la concentrazione, okay? O sperimentavano l'amore incommensurabile per un po' di tempo, no? Cioè, delle cose spettacolari, poi altre cose, no? Cioè, riconoscere, aver fatto portare dei vari semi da vari posti, no? Tutti messi in sacchetti, lui prendendo i semi, dicevano da dove posto veniva, qual era il posto, qual era la famiglia, dove era il campo, l'orientamento del campo, eccetera, tutte queste cose. Poi ha fatto bruciare e ha fatto la stessa cosa con le cenere, un sacco di cose così. Quindi c'è un sutra, non mi ricordo. Te lo ricordi, me lo fai sapere così. C'è poco probabile, poco probabile. Ecco, Però non si sa mai. Come? posso chiederlo? Chi posso chiedere? Forse ha ragione, forse se lo ricorda. La giornata mi ha sempre detto che non è tanto pratica di sutra. Come? La giornata mi ha sempre detto che non è molto pratica di sutra. Non è Quindi non ne sa molto tutto. abile, non li conosce tanto bene. Allora, non so. Forse Ma cosa ha studiato? no. Forse no. No, forse no. Può darsi, può darsi. Ok, ora un'ultima domanda. Ultimissima domanda. Ho avuto la sensazione che quando ascolto degli insegnamenti da un maestro, c'è differenza se ascolto la traduzione o se ascolto il maestro che parla in una lingua a me comprensibile, cioè si ascolta la sua voce sul momento. E mi sembra che ha più presa su di me. È sofferenza del cambiamento o è qualcos'altro? Beh, allora, prima cosa ti consiglio di non farlo perché non capisci niente. Tu stai dicendo. Cosa? In che senso? Quelle poche volte che i maestri parlano in Probabilmente italiano e io non è vero. Ma non ci capisco sono loro. maestri che parlano in italiano. Si possono Dante che Gestapel a volte parla un po' in italiano durante gli insegnamenti e che tutti avvertiamo qualcosa che entra più direttamente. Ah sì, forse ti colpisce di più, ma questo di sì, questo sì, Ma questo. volevo capire se era sofferenza del cambiamento, c'era la novità No, da sofferenza del accettare. cambiamento, la sofferenza del cambiamento, l'abbiamo visto, no? È una mera diminuzione di una sofferenza Sì, precedente che appunto, tu. che può essere ascoltare una traduzione. In quel momento parla il maestro No, parlando. perché non è una sensazione di piacere contaminata, non è generata su un supporto contaminato. Cling. Ok, allora lasciando stare l'aspetto della sofferenza del La cambiamento. sofferenza del cambiamento è una sensazione di felicità che tu generi in dipendenza di un oggetto contaminato. Il Dharma non è un oggetto contaminato, quindi non può essere Mi sofferenza del sembra di cambiamento. approccio. Allora capire se la sensazione forte che uno sente quando quelle rare volte che il maestro parla in italiano è dovuto solo ad un intervallo No, se è una dipende. percezione che viene dalla nostra parte o effettivamente Tutto viene da tua parte, non c'è niente che viene. sì, per capire se viene solo dalla nostra parte, o se in effetti ascoltare un maestro che ti dice, cioè sul momento in diretta, ti dà quell'insegnamento, ha più Questo senso di più. dipende dalla tua mente, questo può darsi durante la traduzione, sei un po' meno attentivo, cioè, ma comunque è chiaro che i maestri particolari, poi non so, cioè, questo dipende dalle persone che abbiamo, la loro parola è molto particolare, questo, diciamo, no? Delle attività illuminata del Buddha, la sua parola è quella più eccellente, no? Perché è certo che quando tu riesci a ascoltare, che abbiamo la fortuna di ascoltare un maestro che si esprima nella sua lingua con delle parole ben precise, selezionate, determinate, ha un impatto diverso. Un impatto diverso se tu riesci a coglierlo direttamente. Però certe volte ci sono anche dei traduttori, ne conosco pochi, che sono anche in grado di farti anche a ricevere questa cosa, nel senso che la loro traduzione è così precisa perché non è troppo un lavoro di interpretazione, ma proprio parola a parola, che sono persone che conoscono molto bene l'argomento, che ci hanno anche riflettuto sopra e quindi sono in grado anche di trasmetterti questa particolare, perché sì, le parole sono particolari certe volte. Poi ci sono dei maestri, ovviamente dipendono anche dalle loro qualità e livelli di realizzazione. Perché mi era venuto in mente che quando ascolto la traduzione è più un impegno dalla mia parte. Mi sento più o meno ispirato, più o meno collegato, più o meno afflitto, posso cogliere certe parole in un Tu certo pensi troppo, te lo dico modo. Lo so. subito. Tu pensi troppo. Lo so. Devi essere molto stanco alla fine della giornata. Dimmi. L'ho già detto. Mentre invece quando è il maestro, quelle rare volte che parla, cioè, è come se entra in gioco un'altra energia. Commento meglio. Quando uno ascolta l'insegnamento, il ruolo principale sarà il nostro impegno che mettiamo. E quindi deve essere di un certo livello, eccetera, È la eccetera. stessa cosa, Mentre invece ho che tu avuto l'impressione. ascolti una traduzione, che tu ascolti il maestro direttamente, l'impegno è lo stesso, devi cercare di capire quello che sta dicendo, che lo sta dicendo il maestro, che lo sta dicendo qualcun altro, a livello di impegno per te deve essere lo stesso. L'unica cosa che cambia è la capacità di effettivamente trasmettere esattamente quello che il maestro ti voleva dire. Ecco perché quando il maestro lo puoi sentire direttamente nella tua lingua, è chiaro che senti esattamente quello che lui almeno pronuncia, quello che vuol dire può darsi di no, ma almeno quello che pronuncia, le parole che sono le sue, non sono quelle di un altro, non è un'interpretazione. Ok, io però sto dicendo ancora un'altra cosa, che va al di là delle parole. Può capitare che leggo la presa di rifugio, la posso leggere ogni mattina, però un giorno la leggo e provo delle Va bene, sensazioni. in quel momento c'è un'apertura. L'apertura devi cercare di crearla sempre. Ok, e io avevo l'impressione che quando, quelle rare volte che si ascolta il maestro, è come se viene anche un'energia dalla sua parte che magari va a compensare quell'apertura nostra che non sempre c'è, come un Ti supporto. dico, guarda, tutto dipende dalla tua mente. Se tu pensi essere davanti qualcuno realizzato, riceve il beneficio di essere davanti qualcuno realizzato, al di là delle sue qualità, sì o no, non le ha. Se tu stai davanti il Buddha e sei convinto di essere davanti a un essere ordinario, non ricevi nessun beneficio. Tutto dipende dalla tua mente. È così. Ok. Quindi ci conviene percepire tutti come Buddha. Beh, c'è un addestramento mentale che ti dice, allora, nel sutra di percepire tutti come essendo dei bodhisattva, ok? E poi nel tantra è un'altra storia. Tantra è apparenze pure, devi avere. Ok, quindi abbiamo generato delle virtù qui, quindi per fare in modo che queste virtù non maturano come esperienze momentanee, prive di significato nell'esistenza ciclica, andiamo a dedicarle. Finché molto velocemente otteniamo lo stato di Buddha, che tutti gli esseri ottengono questo stato, che la mente di bodhicitta, e la mente chiarezza e la vacuità crescono e si sviluppano e non declina in quelli che l'hanno già generate. Andiamo a dedicare anche alla lunga vita dei preziosi, dei veri maestri che insegnano i veri sentieri verso la vera cessazione, ok? E finché l'insegnamento del Dharma dimora in questa sfera senza degenerare. Cendre si vuote in ghiaccio i sabbe si de bandu de giudici da so cinie sabbe ghiavadi adendam drova con la gambera yamma gesù lo sandra moie tembe nyambo rendu se gesù. Grazie. E ci vediamo tra 3 settimane, ok? Perché le prossime 2 settimane, le prossime 3 settimane, no, tra un mese, perché le prossime 3 settimane non sarò in grado di fare il corso la sera. Ci sarà il test. Sì, alle 8 per voi, esatto.